America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Almost since the moment he signed this executive order, it has been tied up in litigation and it has repeatedly been blocked. But here, the Supreme Court has agreed to hear arguments on this case. Beh, avete sentito il newscast, la Corte Suprema rivede il Muslim ban, cioè ha deciso finalmente, che era poi l'obiettivo di Donald Trump, di valutare se le corti minori, alcune corti d'appello, avevano ragione o torto quando hanno bloccato il decreto presidenziale di Donald Trump che voleva impedire a certi paesi di poter avere i propri cittadini in arrivo negli Stati Uniti con un visto, diciamo così, facile. Ecco, la vicenda, come ricorderete, era stata considerata una discriminazione religiosa nei confronti di alcuni paesi e dunque non era, dal punto di vista della Costituzione americana, considerata legittima. Per cui la Corte Suprema interviene. Piccola vittoria di Donald Trump. Però l'America da che cosa è presa? Non proprio da questo fatto di cronaca importante, rilevante, perché ha un impatto anche politico e poi la Corte Suprema dovrà pronunciarci su uno degli episodi che ha creato più divisione all'interno degli Stati Uniti, ma c'è stata un'altra notizia, sempre in arrivo dalla Corte Suprema. Devo dire, la Corte Suprema è straordinaria, questo tempio della giurisprudenza americana, i giudici della Corte Suprema sono nominati a vita e intervengono su questioni che poi hanno un impatto diretto sulla vita di ogni giorno dei cittadini. Pensiamo all'aborto, per esempio, pensiamo alla protezione di certi diritti. Ebbene, su che cosa hanno deciso di intervenire? Perché poi a un certo punto annunciano che ascolteranno dei casi e ieri appunto è stato l'annuncio in cui hanno annunciato che ascolteranno la questione del Muslim ban e sentite un po'. A Colorado case we have been following for years is now headed all the way to the U.S. Supreme Court. A baker in Lakewood refused to make a wedding cake for a gay couple, arguing that it violated his religious beliefs. Beh, ha capito benissimo, per chi parla l'inglese. La Corte Suprema ha accolto il ricorso di un pasticcere del Colorado. Un pasticcere. Perché? Ma la storia è semplice e aveva già avuto un certo impatto sulle cronache. Questo pasticcere, il signor Jack Phillips, che è il proprietario del Masterpiece Cake Shop di Lakewood in Colorado, quindi un paesino del Colorado, ha rifiutato di preparare una torta nuziale per una coppia gay. È cristiano, dice, e per via delle sue convinzioni religiose si è rifiutato di lavorare per David Bowles, Charlie Craig, che finalmente, grazie invece all'apertura della società americana nei confronti dei gay, delle lesbiche, delle minoranze, finalmente potevano convolare a giuste nozze. Ecco, i due se la sono presa, perché insomma nel momento in cui possono sposarsi poi trovano qualcuno che discrimina nei loro confronti e non gli vuol fare la torta nuziale. Insomma, voglio dire, è proprio una affronto e quindi hanno presentato una denuncia per discriminazione e a quel punto sono andati avanti perché hanno vinto davanti alla Commissione per i diritti civili, poi sono andati in tribunale e la fede religiosa di Phillips dice non poteva essere utilizzata come pretesto per discriminare nell'ambito di un esercizio pubblico. Il pasticcere è convinto che davanti alla Corte Suprema potrà vincere. Perché? Ma perché ci sono stati anche altri casi, per esempio Marjorie Silva, che è una fornaia di Denver, sempre in Colorado, che si era rifiutata di preparare due torte che William Jack le aveva chiesto di decorare con immagini di coppie omosessuali. Ma torniamo a bomba, torniamo alla questione giuridica, perché poi alla fine ognuno può pensarla come vuole, ma la legge è legge. Sentiamo. Ultimately, in Massachusetts, we were able to have same-sex marriage in May of 2004. That was a beginning for us, after a long marriage in terms of our love for each other. Ho preferito risalire al primo matrimonio lesbico tra Marsha Hams e Susan Shepard, 17 maggio 2004, quando il Massachusetts accettò appunto la loro richiesta di matrimonio. A questo punto poi il processo è andato avanti dal 26 giugno 2015 e un diritto federale. Le adozioni gay sono riconosciute invece in 22 stati su 50. A questo punto chi ha ragione? Il pasticcere che dice io non voglio darti il dolce e tu non puoi discriminare a tua volta nei miei confronti per il mio credo religioso, oppure i gay? Beh, i gay hanno una posizione un po' difficile dal punto di vista giuridico, perché il Federal Civil Rights Act, cioè la legge per la protezione dei diritti civili, protegge assolutamente quando ci sono, diciamo, questioni di discriminazione, per esempio razziale, colore della pelle, così via, così via. Però ancora l'orientamento sessuale non è contemplato tra le categorie del testo. Alcuni stati, una ventina di stati, hanno già ovviato a questa cosa prendendo dei loro provvedimenti, ma altri no. E quindi ci sono dei problemi aperti. Quali sono? Beh, per esempio, la guerra dei bagni per le persone transgender. È esplosa nel North Carolina questa battaglia e i transgender volevano avere il loro bagno, oppure magari potevano voler andare in un bagno di donne anche se erano dotati, diciamo così. E questa cosa ha scatenato l'opinione pubblica e proprio la Carolina del Nord ha votato una legge che proibisce ai transgender di usare bagni pubblici del, diciamo, genere sessuale che preferiscono. Il Texas sta seguendo la Carolina del Nord, Maryland e Massachusetts stanno intervenendo sulla questione dell'adozione dei bambini. Le leggi a tutela dei genitori dello stesso sesso anche cominciano a prendere corpo negli stati. E qui emerge che cosa? Beh, emerge questo straordinario equilibrio degli Stati Uniti d'America, di cui noi in Europa forse dovremmo prendere un pochino esempio. E cioè, gli stati hanno la loro autonomia. L'America è un paese straordinariamente unito, è un paese con una bandiera, con un inno nazionale, però gli stati contano. E allora ci si domanda, ma perché non dobbiamo riuscire anche noi in Europa a fare un passo in avanti in questa direzione? In una direzione cioè in cui gli stati hanno davvero una loro autonomia, ma sono protetti per esempio a livello fiscale sul piano federale, mentre invece adesso sul piano fiscale non siamo protetti, però dobbiamo sottoporci a delle richieste durissime dal punto di vista delle imposizioni economiche. Insomma, abbiamo parlato più volte della necessità di riforma europea, ma guardiamo agli Stati Uniti, che hanno un sistema federale che in qualche modo riesce a compensare le varie esigenze e a creare quelle valvole di sfogo che non fanno sentire un paese, beh, usiamo il termine, discriminato nei confronti di altri. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americano24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Bene, eccoci alla canzone del giorno. Beh, io userei le parole di un artista omosessuale, e cioè George Michael, con un titolo, beh, esemplificativo, su cui credo nessuno troverà qualcosa da ridire. Freedom, libertà. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!